Radio 24 Reportage. Scampia, oltre la faida. Un quartiere tra paura e riscatto. Di Raffaella Calandra. Noi siamo due ragazzi, diciamo tossici, che non riusciamo a uscire da questo vizio della droga. Mi porta lui a Scampia a prendere questa droga, abbiamo fatto una rapina e ci sta il morto, cioè che sarei io. È la vita vera che va in scena sul palco. Sono i ragazzi di Scampia che rappresentano se stessi, o meglio, quello che succede intorno a loro, nell'altra metà di un quartiere dove si torna a sparare e morire anche a 20 anni. Così, mentre la faida riaccende i riflettori sulla Scampia che vende droga, che vive di vedette e armi in pugno, la Scampia che si uccide. Con la tenda di un sipario, Vincenzo, Laura, Raffaele e tutti i ragazzi di Scampia Trip dimostrano che un altro mondo, anche lì, è possibile. Un mondo dove i residenti delle vele o delle case dei puffi cominciano a denunciare i loro vicini di casa. Un mondo dove la guerra degli altri non entra sotto forma di paura nelle case di tutti e non ci sono mai coprifuoco né zone proibite. Questo mondo i ragazzi dell'altra Scampia lo costruiscono a partire dalle stanze delle associazioni. A piedi tranquillamente, senza problemi, senza aver timore di niente, di nessuno. Guarda, a Scampia non si è mai sentito di un furto, di una rapina, perché qua a Scampia siamo abbastanza protetti dal fatto che se tu appartieni a qualcuno hanno paura di farti del male. Fin quando si ammazzano tra di loro, ben venga, un po' di schifezza in meno. Ogni un paio d'anni ci sono questi piccoli scontri tra, diciamo, bande. Capitano spesso anche quando non se ne parla, diciamo, per cui la vostra vita continua normale. Sì, perciò la prendiamo come viene. Non hai paura di finire in mezzo a qualcosa che non ti riguarda? Vabbè, se capita, non è stato destino. Anche per te il punto di ritrovo per voi ragazzi è soprattutto l'attività che ruota intorno alle varie associazioni? Sì, ci sono le associazioni che a noi fanno piacere che esistano. E poi a me la cosa che più mi fa piacere è il teatro. Quanto è importante mettere in scena, quindi trasformare in rappresentazione teatrale delle storie vere? Importantissimo, veramente, anche perché oltre a delle realtà purtroppo tristi, come si sa, ci sono anche delle belle realtà. Purtroppo è un fenomeno che si diffonde tra i giovani, ma sai perché? Semplicemente per darsi, non lo so, come ti devo far capire, per darsi della visibilità. Capita in famiglia, sai, già disastrate di loro, è un virus, come ti devo far capire? È un virus che purtroppo ha colpito il nostro quartiere, come se tu vai in Afghanistan stanno i bambini che vivono in mano, qua stanno i ragazzini sui motorini molto giovani, però mentre noi facciamo altre cose positive, capito? Altri ragazzi come loro e a volte anche più giovani sono invece già al servizio dei boss, come pusher e vedette, come i due minorenni arrestati nel blitz all'8G, il palazzo occupato dai nuovi emergenti, quelli della via Vannella Grassi, i cosiddetti girati. Occhi invisibili ti seguono quando arrivi e quando cammini tra androni e corridoi pattugliati da vedette, come era Davide Cerullo, ex pusher di Scampia. Sono arrivato a guadagnare 1 milione anche delle vecchie lire al giorno, a soli 14 anni e mezzo. E come lei anche molti altri bambini, ragazzini che vengono usati dai boss? Un motorino, un orologio, tantissimi soldi ed è facile cadere. In che modo veniva arruolato? Si servivano di me facendomi trasportare della droga da un quartiere all'altro o conservare delle armi o addirittura trasportarle o addirittura facendo da guardiaspalle. A Scampia sono come le piazze di certi paesi del sud, le sedi delle varie associazioni, una specie di muretto per questi ragazzi che cercano anche attraverso le tournée teatrali, la prossima a Cassino, di uscire da un quartiere dove il mondo di fuori entra solo quando lì si spara. Col fatalismo tutto partenopeo, ai rischi di una nuova faida tra clan, preferiscono non pensare questi ragazzi. Anche loro l'hanno vissuta, quella del 2004, il cui spettro invece ora lo leggi nelle facce tese delle madri che vanno a prendere i figli a scuola o negli sguardi interrogativi della gente verso rumori improvvisi. Le vittime innocenti di una guerra non loro non sono mancate neanche in questo quartiere, che però ora, a differenza di 8 anni fa e forse per la prima volta, comincia a stare esplicitamente un po' meno in silenzio e un po' più dalla parte dello Stato e non di quella dei clan che, quando una faida comincia, mandano ordini di sfratto agli avversari, come ben sa Ciro Corona, che ha aperto lo sportello anti-racket. Noi avevamo aperto lo sportello come gesto simbolico, volevamo dimostrare che non è vero che qui si possono aprire delle attività, se e solo se lo vuole la Camoda e col permesso della Camoda. Noi in realtà ci siamo dovuti ricredere, perché sono arrivate la media di 7-8 denunce al mese, quindi voglio dire, una rivoluzione per Scampia. Che tipo di denunce fanno? Dall'abusivismo edilizio alla tentata apertura di nuove piazze di spaccio, alla costruzione di barricate all'interno dei cancelli da parte degli spacciatori. E ora in questo momento il quartiere come sta vivendo i segnali di ripresa, di scontri interni ai clan? Ma la paura di rivivere la faida del 2004 c'è, ovviamente, quindi la paura di potersi ritrovare immischiato in qualche conflitto a fuoco, in qualche sparatoria. Qui abbiamo avuto parecchie vittime innocenti di Camorra, si trovavano in quel momento in quel posto. Si cerca di frequentare posti più protetti, ad esempio questo spiazzato davanti al commissariato sta diventando sempre di più un luogo di ritrovo, perché ci si sente quasi in una roccaforte tranquilla e sicura. Nonostante la paura e le preoccupazioni, le ripeto, c'è un'ostentata normalità. Sempre facendo un confronto con quanto successe durante la faida dell'epoca, si raccontò anche molto delle persone che avevano cambiato casa, degli spostamenti che c'erano stati. Noi come associazione lavoriamo per scelta con i figli dei camorristi o degli affiliati o comunque di persone che lavorano nell'indotto della droga, e ovviamente c'è qualcuno che è andato via o che almeno in questo periodo non si vede, ma è legato a quel tipo di persone, insomma. Insieme alle statue, ora di Padre Pio, ora di Cristi e Madonne, volanti della polizia o auto dei carabinieri presidiano costantemente le principali piazze di spaccio, quegli angoli di territorio, cioè, che la Camorra qui a Scampia ancor di più aveva trasformato a proprio beneficio, esplicitamente, anche con un cancello. E tutto questo ha portato quelle madri lasciate fuori casa dai boss o quei ragazzi che vedono coetanei spacciare droga a non stare più zitti. In una cartellina rossa, Michele Spina, primo dirigente del commissariato di Scampia, raccoglie tutte le denunce dei residenti. È un quartiere in cui abitano moltissime persone per bene, sicuramente più numerose le persone per bene e oneste dei camorristi e degli spacciatori. Ci sono molte istituzioni, per esempio le scuole, che funzionano benissimo su questo territorio. Quindi ci sono i semi perché il quartiere possa riprendersi. Tant'è vero che anche la vostra presenza e tutte le varie operazioni fatte hanno innescato anche un meccanismo più collaborativo da parte della gente. Sicuramente, tant'è che in passato, parallelamente agli arresti e alle operazioni di polizia, noi abbiamo adottato un sistema di aggressione quotidiana delle difese passive, abusive, create dalla Camorra per difendere militarmente lo spaccio. Il sistema criminale si impossessava di un palazzo, di un androne, modificavano il portone di accesso al palazzo, sostituendolo con un portone blindato, schermato, con una feritoia protetta attraverso la quale esercitare lo spaccio di droga, con la chiusura di alcune strade di accesso per impedirci di arrivare in modo rapido a quel portone. In più, con il posizionamento di sentinelle per avvertire del nostro arrivo. Noi abbiamo adottato un sistema di aggressione quotidiana di questi cancelli, di queste difese passive, cioè di queste opere abusive a tutela dello spaccio, rompendole ogni giorno con l'ausilio dei vigili del fuoco. Allora, questo tipo di intervento, abbiamo invogliato tutte le persone per bene che hanno preso fiducia, anche in forma anonima, a farci le segnalazioni. E che cosa vi segnalano? Ci segnalano, per esempio, spostamenti, ci danno indicazioni. Basta crederci e trovi un mare di bene a Scampia. Così recita la gigantografia voluta dal Comune di Napoli in italiano e in inglese per accogliere chi esce dalla metropolitana. Per troppo tempo però loro e tutte le altre parti in causa sono stati i primi a non crederci, lasciando intere fette di territorio ai clan, lasciando che ragazzi sempre più giovani, come quelli emergenti ora in questa nuova guerra di Camorra, i cosiddetti girati di via Vannella Grassi, lasciando che si sterminassero tra loro. Ed è a quelle troppe facce giovani viste sulle lapidi dei cimiteri di periferia che pensa ora il questore Luigi Merolla quando chiede che i rinforzi restino a lungo.